Buenos Aires di notte. Sulle banchine del porto di notte. Da una parte le case illuminate, dall'altra alte murate di navi attraccate. Qualche barca anatreccia silenziosa. Un bastimento a vela sfuma nel buio l'intelaiatura degli alberi e dei cordami. Un riflettore continuamente errante taglia zone di luce nella oscurità. Rivela ciminiere, antenne, vele che scattano con impeto di colori e subito riaffogano nell'ombra. Urli lamentosi, sirene di navi in movimento, solcano la notte. Un coro cantato in cadenza segna il ritmo del lavoro a qualche compagnia di caricatori. Comitive di marinai traversano la strada, si fermano dinanzi ai caffè, ai cinematografi, ai teatrini. Sciami di donnette si avvicinano, sorgendo non so di dove, li attorniano. Poi uno della comitiva si arrischia. Entra. Tutti gli altri lo seguono, si lasciano ingoiare dalla porta luminosa. Ad ogni entrata irrompono sulla strada ondate di canzoni, musiche di chitarra, di banjo, di orchestrine robustite da ottoni. Ma subito i suoni vengono soffocati dall'immediato richiudere della porta. Un impiegato vigila perché da fuori non si possa vedere né sentire. Dinanzi ad un antro luminoso che si chiama Metropolitan Theater, un gridatore infaticabile celebra la meraviglia dello spettacolo. Vengano a vedere, signores, il más estupendo de los programas, la famosa tanguista Sara, la celebre bailarina de flamenco Carmencita Herrero e l'affamato, famoso, non affamato, intendiamoci, Carlitos Gardela, spettacolo stupendo e picaresco. Entriamo, non si paga. Troveremo il prezzo d'ingresso sulle consumazioni. La sala è illuminatissima. Gli argentini hanno la frenesia della luce. È una vecchia grande sala di teatro con intorno una galleria, ma il palcoscenico è chiuso e lo spettacolo stupendo e picaresco si svolge sopra una pedana dinanzi all'orchestra. La scena è velata da un sipario alla cui decorazione lavorano coscienziosamente da anni la polvere, le ragnatele e certamente anche i topi nelle ore fuori programma. La platea è ingombra di tavoli e piena di gente. Si beve, si fuma e si ascolta. Si ascolta una ragazzina alquanto sgonnellata, ma non molto più delle dame che si vedono a passeggio. Ha le spalle nude fino a dove non si chiamano più spalle e canta un tango malinconico. La voce è fresca e piacevole, la musica lenta e voluttuosa con brusche riprese. Successo enorme, applausi assordanti, mani e piedi e grida. Il pubblico è magnifico di varietà. Si intona l'ambiente e lo completa con pennellate e tocchi di colore da far svenire d'invidia tutti i più grandi direttori di film, sezione Bassifondi. Le navi che convengono al Plata da tutti gli itinerari del mondo presentano qui un catalogo di razze. Marinai bianchi, neri, gialli, color nocciola, color oliva. Operai ancora in veste da lavoro, braccia nude, faccia scura di polvere di carbone e lucida di sudore ed olio. Borghesi che arrischiano colletto e cravatta, messicani bruni con occhi roteanti, qualche giovinotto pallido, sbarbato, lisciato, di un'eleganza eccessiva per quest'ambiente. Comitive di uomini capelluti, baffuti, irsuti, tutti uniti dal desiderio di stare allegri come si può. Nel pubblico nessuna donna. C'è soltanto il gruppo delle artiste, ogni tanto si levano, trascinano pellicette di animali domestici, nobilitati con nomi esotici, vanno fra i tavoli, siedono abbozzando un sorriso nel volto di porcellana, si fanno offrire un liquore, acqua tinta, il pagamento diviso a metà col padrone del locale. La musichetta ricomincia. La ragazzina alquanto sgonnellata torna a cantare, le donnine girano fra i tavoli, i lupi di mare intrecciano i deli con le agnelline di terra, nuove comitive irrompono, la ragazzina boccheggia un altro tango. Ma le altre artiste? Lo spettacolo è stupendo e picaresco? Niente. Frasi di richiamo. Il programma è tutto basato sulla piccola cantatrice. La gente di mare è stata tanto tempo isolata. Non bisogna esagerare con i divertimenti. Cerchiamo altrove. Fuori, sulla banchina, nelle stradette interne assai meno illuminate, sempre nuove comitive passano, nessuno va solo. Alberghetti appena indicati da un lume socchiudono la porta, la richiudono subito come uno sbadiglio nella notte. In quello sbadiglio si infilano clienti. Poliziotti a cavallo perlustrano le strade. L'ambiente è noto alla questura. Ogni tanto scappa una coltellata. Si sentono colpi di rivoltella che il più delle volte sono sparati in aria, ma che di quando in quando vanno a forar la pelle. Allora i poliziotti si precipitano. Si ode gracchiare stridula l'automobile di soccorso della pubblica assistenza. Poi tutto torna prontamente tranquillo. Trillano i campanelli dei cinematografi, la musica riprende, si canta, si beve. Ecco un baile, ingresso gratuito. Si cercherà di spennare il cliente quando si è entrato. Si balla il tango, è l'autentico tango argentino, señores, che non viene né dalla pampa né dal campo, ma che è nato in questi barrios, in questi rioni senza premeditazione, fiorendo spontaneo su modulazioni della vecchia habanera. Le coppie strisciano in un piccolo spazio limitato da tavoli. Le donne sono meravigliosi esemplari da museo anatomico, con occhi dilatati, facce a intonaco, abiti di fantasia. I cavalieri le stringono con orgoglio, ballano correttissimi, seri, segnando figure armoniose e perfettamente a tempo sul ritmo onduloso della musica. In Europa darebbero lezione. Ogni tanto una artista canta il tango. Ecco, una negretta che sale alla loggia dell'orchestra e intona la canzone. È giovine assai, porta calzoni lunghi maschili, camicia sbuffante, bianca quasi, ha una snella figurina adolescente. Quando si avvicina a noi, le chiediamo perché non porti anche la giacca da uomo, sarebbe un tipetto. Sorride di un sorriso umile fra bianchissimi denti. No tengo para comprarme un traje completo de hombre. Non ho denaro per comprarmi un completo abito da uomo. Guadagno troppo poco. Quando arriverò a comprarmi una giacca potrò cantare nei cinematografi. E allora comprendiamo. Allora sarà la gloria. Per intanto gli offriamo che tome un coppettino o un bicchierino. Guadagnerà la metà sul prezzo. La piccola negra rifiuta, fan pagare troppo caro qui e sciogno chiero a serles gasto, non vuole farci spendere. Soy criolla, dice con fierezza, e corre su per la scaletta a ricantare. Oh negretta, e come farai allora a comprarti la giacca per la gloria? La cantrina criolla, Perlita Negra si chiama, guizza fuori dal suo teatrino, corre verso una donnetta negra che aspetta. Sua madre? Forse. le mette in mano qualche cosa, del denaro, mi pare. Le dà un bacio, torna dentro di corsa. Oh, Negrita, vedo sempre più in pericolo la tua giacchetta della gloria. Si è levato un vento rigido. Da un sottoportico ombre si muovono, si alzano, vengono nella luce. Povera gente che si era messa a dormire all'aperto, l'ha svegliata il freddo.